L'importanza di Donatella, dal fattaccio del Circeo alla legge sullo stupro, sulle orme di Donatella Colasanti, di e con Donatella May, voci di Francesca La Scala e Pietro Faiella. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Caterina Corsi del collettivo Voci nel Deserto per presentare la settimana di sensibilizzazione e sostegno pro-Palestina All Eyes on Cisgiordania. A Roma, Zalib, dal 9 al 14 marzo 2025. Ben trovata. Ciao Federico e ciao a tutti. Ben ritrovati a voi, è sempre un piacere. Partiamo dalla storia. Raccontiamo cos'è Voci nel Deserto. Voci nel Deserto è un progetto teatrale nato nel 2009 e lo portiamo avanti da un bel po' di tempo, insomma, grazie appunto a questo collettivo chiamato Voci nel Deserto. I partecipanti al collettivo sono attori, musicisti, autori. È sostanzialmente una raccolta differenziata della memoria di una attualità sconcertante e di volta in volta ogni spettacolo si occupa di argomenti diversi, ecco, che sono appunto di strettissima urgenza e attualità. Raccontiamo questa settimana, a partire dal film documentario, la mostra e poi il rave teatrale. Sì, grazie al lavoro, all'organizzazione del collettivo Occhi sulla Palestina, verrà organizzata questa settimana di riflettori puntati sulla cultura palestinese e inaugureremo appunto questa settimana il 9 di marzo con la proiezione di alcuni frammenti del film documentario No Other Lands, che è stato presentato al Festival di Berlino nel 2024 ed è candidato come miglior documentario del 2025. Poi, insomma, lo spazio Zalib, appunto, ospiterà anche una mostra di opere inedite di artisti palestinesi. Poi appunto il 14, l'ultimo giorno di questa manifestazione, alle ore 20 ci sarà lo spettacolo Voci nel Deserto e tutto questo serve per supportare il lavoro di due associazioni palestinesi di Masaf Ariat in Cisgiordania e infatti l'intero ricavato dell'evento sarà appunto portato materialmente nelle loro mani dal giornalista Filippo Zingone, proprio per supportare il lavoro che queste due associazioni fanno in Cisgiordania. Spieghiamo anche come si articolerà la serata del 14. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20, sono previsti diversi eventi durante la giornata, alle ore 20 saremo appunto in scena con la formula che caratterizza Voci nel Deserto, quindi un gran casino, e seguirà poi dopo con lo spettacolo, anche. Assolutamente, perché appunto ci piace chiamare lo spettacolo un rave teatrale, perché si avvale appunto non soltanto dell'opera degli attori e attrici sul palco, ma anche di musicisti dal vivo e di un DJ che è il direttore d'orchestra di tutta questa serata e poi infatti dopo lo spettacolo seguirà una jam session e insomma si farà casino, ecco, chiuderemo ballando. Qual è la cadenza in questo periodo di Voci nel Deserto? Noi quando abbiamo iniziato nel 2009 per molti anni avevamo una cadenza mensile proprio per cercare di viralizzare il più possibile i contenuti che scoprivamo e diciamo che dopo tutti questi anni adesso Voci nel Deserto si spende per delle cause specifiche e appunto siamo molto contenti di collaborare con il collettivo Occhi sulla Palestina in questo momento e prestare la nostra opera per una causa così importante. Normalmente gli spettacoli di Voci nel Deserto sono gratuiti, anche perché tutti gli artisti che partecipano a Voci nel Deserto lo fanno a titolo assolutamente di volontariato teatrale, proprio per far sì che la fruizione sia la più ampia possibile per il pubblico che entra gratuitamente. In questo caso però appunto prestiamo la nostra opera per aiutare materialmente queste due associazioni in Cisgiordania e quindi vogliamo contribuire a far sì che tutti i fondi vengano appunto devoluti per questa causa, quindi sarà previsto un piccolo biglietto di ingresso, oltre naturalmente alle consumazioni. I riferimenti web per saperne di più? Naturalmente abbiamo sia la pagina Facebook che la pagina Instagram che è appunto Voci nel Deserto, oltre al nostro sito vocineldeserto.it, che vengono costantemente aggiornate e qui già stiamo comunicando l'evento appunto. E appunto la serata di Voci nel Deserto chiuderà questa settimana importante allo spazio Zalib a Trastevere in via della Penitenza 35. La settimana di sensibilizzazione e sostegno pro-Palestina All Eyes on Cisgiordania a Roma, Zalib, dal 9 al 14 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento a Caterina Corsi del collettivo Voci nel Deserto. Alla prossima! Grazie a voi, alla prossima, ciao! Con Laura Consumati dell'Arci Poggio Mirteto per presentare la 45esima edizione del Carnevalone Liberato a Poggio Mirteto domenica 9 marzo 2024. Ben trovata. Grazie, grazie. Partiamo dalla storia. Il Carnevalone Liberato è l'unico carnevale anticlericale in Italia, nel senso che ha una storia lunga e risale al 1861, che è il primo anno che è stato, insomma, festeggiato il Carnevale di Quaresima. E la storia affonda le radici in pieno, no, liberazione dell'Italia e annessione al Regno d'Italia. Poggio Mirteto può vantare il fatto di essersi autoliberato dallo Stato Pontificio con un'insurrezione popolare, e per festeggiare questa autoliberazione si è concesso alla popolazione festeggiare il Carnevale di Quaresima, e da momento si è festeggiato quasi sempre, eccetto appunto durante il fascismo, dopo i patti lateranensi nel 1929 è stata interrotta questa tradizione. Noi come circolo l'abbiamo ripresa nel 1977 e ancora siamo qua, ancora resistiamo. Per questa edizione, come per la precedente, è stata avviata una campagna di crowdfunding. Sì, l'abbiamo sempre detto in tutti i modi, non abbiamo nessun tipo di finanziamento, cioè non riceviamo nessun tipo di sovvenzione, che sia pubblica, privata, non abbiamo sponsor. Ecco, giusto quest'anno abbiamo tentato di rispondere a un bando di cui però ancora non conosciamo l'esito. Negli anni ci siamo sempre arrangiati con raccolte fondi e autofinanziandoci durante la festa con i proventi degli stand gastronomici. Noi abbiamo un crowdfunding in corso e sulle nostre pagine social ci sono tutte le coordinate per fare eventuali donazioni, però invitiamo tutti quanti a finanziare la festa il giorno del giorno proprio del Carnevalone, andando ai nostri stand, mangiando da noi, bevendo da noi e anche acquistando i nostri gadget, perché è tutto autofinanziato. Ecco, spieghiamo come si svolgerà la giornata. La festa inizia di solito verso mezzogiorno e mezza, a luna, quando c'è l'ingresso nella sala principale del paese del Noccio, che è una sorpresa ovviamente, che è un grosso pupazzo, le fattezze, noi diciamo sempre il potente di turno. Lo scorso anno siamo andati un po' a finire su tutti i telegiornali dopo la festa e non ce l'aspettavamo che scoppiasse un scandalo per aver dato fuoco al pupazzo, che l'anno scorso era una satira di Giorgia Meloni, però se ne sono presa particolarmente. Lo scorso anno, non sappiamo perché, noi abbiamo bruciato di tutto negli anni, da papi a presidenti della Repubblica, però lo scorso anno è stato l'unico anno in cui c'è stato un moto di indignazione. Comunque la festa, ecco, c'è l'ingresso del bamboccio e poi inizia l'apertura degli stand gastronomici, musica, artisti di strada, bande marcianti, tutto fino al tramonto. Al tramonto appunto c'è il rombo del bamboccio che si una della festa. Ci sono realtà culturali, sociali, non solo del territorio ma anche nazionali, che aderiscono e partecipano? Sì, vabbè, abbiamo visione dei vari circoli Arci, Arci Roma, anche l'Arci Lazio ci supporta, ecco. Poi abbiamo tante associazioni a noi care che ci danno proprio una mano durante la manifestazione, che sono Civiltà Laica di Terni. Poi negli anni abbiamo sempre avuto la presenza dell'UAR, i circoli UAR sono sempre esposto, e ci sono anche la Lega Ambiente Bassa Sabina, insomma varie realtà e ancora fortunatamente esistono anche in zona. Ci sono anche già eventi in calendario per la giornata? Abbiamo pubblicato la lista degli artisti, che è sempre un po' in continuo divenire, però quelli confermati sono tutti sulle nostre pagine social. Mi dai tutti i riferimenti web?

Ed eccoci qua, ben trovati tutti e tutte in questa giornata che apre la settimana teatrale romana. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta, cosa ci offre questa settimana. Allora, partiamo dal nostro teatro Tor Bella Monaca. Mentre gli spettacoli che si alterneranno questa settimana nelle sale, prima di tutto Fiori d'acciaio, 5-6 marzo, spettacolo di Michele Andreozzi, Massimiliano Vado, che racconta una storia molto, molto, molto attuale, un microcosmo, quello di un negozio di provincia, che è uno specchio un po' di macrocosmi più grandi, chiaramente le dinamiche che nel tempo fanno sempre fatica a cambiare. Ecco, la provincia raccontata attraverso un negozio, un po' come era per il vecchio film Smoke, che un po' osservava da un negozio appunto la strada intorno e tutti i personaggi che lì passavano. Dal 6 all'8 marzo poi è la volta invece di una drammaturgia con Sara Donzelli e Sergio Sgrilli, curata da Riccardo Fazzi e Giorgio Zorcu, tratto dal romanzo di Sasha Nespini pubblicato da EO, questo che si chiama Nives, un romanzo tradotto in 25 lingue. C'è una donna che è rimasta sola nella sua tenuta dopo la morte improvvisa del marito. L'unica sua compagnia è una gallina zoppa che si incanta davanti alle reclame del Dash in TV. Nives chiama il veterinario per capire cosa fare con questa gallina, e nel loro dialogo emerge una vicenda che appunto non sveleremo. E quindi dal 6 all'8 marzo la andremo a vedere al Teatro Tor Bella Monaca, dove dal 7 al 9 marzo andremo a vedere anche lo strano caso del dottor Jerome Storm, lo spettacolo di Rocco Bucciarelli con la regia di Zenone Benedetto. E siamo in un futuro lontano, nel 3000, su un mesopianeta, dove il dottor Jerome Storm è un capo missione del presidio sperimentale del mondo interplanetario Delta e trascorre le sue giornate creando nuovi mondi accoglienti per l'umanità avida di conquiste. Quindi siamo all'interno della fantascienza per questa apertura con il Teatro Tor Bella Monaca. Ma andiamo intanto a Spin Time, dove questa sera, quindi questa settimana, ce ne occupiamo, perché questa sera, martedì 4 marzo, alle ore 21, ci sarà questo tentativo di rappresentazione della morte accidentale di un anarchico a cura di Marcantonio Graffeo, chiaramente un lavoro che si situa negli anni 70 dell'impegno politico, del segreto di Stato che attorno alla vicenda dell'anarchico Pinelli non ha mai realmente restituito la verità di una storia che invece ne avrebbe bisogno. Quindi da Dario Fo, chiaramente la morte accidentale di un anarchico, il tentativo di rappresentazione lo andremo a vedere questa sera alle ore 21 a Spin Time, nella sala di Spin Time. Allora, teatro di documenti invece, 7-16 marzo, per questo lavoro di Stefania Porrino, Quando verrà la fin di vita e questa storia è già finita. Ci sono Virgilio e Beatrice, due maturi coniugi senza figli che cercano di esorcizzare la paura della vecchiaia e della morte. E poi dall'altra parte ci sono Vir e Bea, che sono i veri autori della loro storia e chiaramente quindi coloro che danno vita a questo dialogo per cercare di trarre da esso dei riscontri, insomma, per la vita che è stata o che verrà, chi lo sa. Questo lo andremo a capire dal 7 al 16 marzo al Teatro di Documenti. Poi Teatro Lo Spazio, dove Teresa Cecere e Davide Marzi portano in scena Inviolata, una riflessione sulla vergogna imposta alle donne, sull'onore maschile, concetti che per secoli hanno segnato la cultura e anche la legge, in realtà, italiana. La scena ha tanti vestiti stesi, mollette, fili, un simbolo di un mondo domestico, chiaramente come viene interpretato, insomma, dall'intero secolo Novecento, e attraverso il corpo, la voce, il gesto, le tre interpreti femminili passano dal maschile al femminile, dal sacro al prosaico, e compongono un quadro scenico che mescola teatro fisico e narrazione. E lo spettacolo prende spunto da alcune fonti, tra cui maggiormente Lieta Harrison con il libro inchiesta Le Svergognate. Quindi Inviolata dal 7 al 9 marzo al Teatro Lo Spazio. Procediamo alla Sala Umberto, arriva Giampiero Rappa che scrive e dirige L'Uomo dei Sogni con attori importanti come Nicola Pannelli, Elisabetta Mazzullo, Andrea Di Casa, Elisa Di Eusanio, attori insomma cari a Giampiero Rappa, dal 4 al 16 marzo alla Sala Umberto, ed è una commedia che sfida l'incubo della vita reale. C'è Giovanni, conosciuto nel mondo dei fumetti come Joe Black, un disegnatore di grande talento ed esperienza, però la sua vita è sconvolta da un evento che lo porta a ritirarsi dal mondo e cerca rifugio nella solitudine. Cosa è successo nella sua vita? Questo che cosa svilupperà, diciamo, nella sua nuova esistenza lo andremo a scoprire dal 4 al 16 di marzo alla Sala Umberto con L'Uomo dei Sogni. E il classico raggiunge il Teatro Vascello perché l'Edipo Re di Sofocle, con la regia di Fabrizio Sinisi e la regia di Andrea De Rosa, dal 4 al 9 marzo appunto sarà in scena al Teatro Vascello con tra gli altri Marco Foschi, Roberto Latini, Francesca Della Monica, Francesca Cutolo, insomma attori e attrici di grande rilievo per questa appunto vicenda classica, la storia di Edipo Re, chiarissimo, insomma sappiamo tutto di Edipo Re, sappiamo dell'abilità che gli permette di sconfiggere la Sfinge che tormentava la città di Tebe, e del fatto che Edipo è costretto poi successivamente a scoprire che il suo passato una lunga sequenza di orrori e delitti. Andiamo dunque al Teatro Vascello dal 4 al 9 di marzo per questo lavoro. Poi al Teatro India 5-9 marzo Le Cinque Rose di Jennifer, Annibale Ruccello, uno degli autori più rappresentati in queste settimane a Roma e anche in realtà in questi anni, perché lo avevamo già visto in scena Le Cinque Rose di Jennifer con un'altra compagnia, in questo caso regia è di Geppi Gleieses, con lo stesso Gleieses e figlio Lorenzo Gleieses appunto. Questo testo racconta di due protagoniste, Jennifer e Anna, che raccontano anche di una Napoli sotterranea en travestì negli anni Ottanta, anche della paura, della solitudine, della follia, del mancato riconoscimento, di integrazione e di aderenza alla vita sociale per chi ne viveva la condizione negli anni Ottanta. 5-9 marzo, Teatro India, Le Cinque Rose di Jennifer. Poi ancora all'Altrove Teatro Studio dal 7 al 9 marzo, la regia di Giorgio Latini, in scena lo stesso Latini con Ottavia Bianchi, testo di Giorgio Latini. Cosa potrebbe andare storto? Non c'è un punto interrogativo. Cosa potrebbe andare storto? Punto. Ci sono due ladri improbabili che tentano di rapinare una banca. Qualcosa non va secondo i piani. Si vedono costretti a chiudersi all'interno dell'edificio con due ostaggi. Anzi, precisamente gli altri due attori, appunto Valentina Marziali, Roberto Fedele. Scusate, non l'ho detto in precedenza. Da qui inizia un paradossale susseguirsi di avvenimenti in cui nulla è come sembra e nemmeno la stessa rapina. E nel confronto tra i malviventi e le vittime, insomma, usciranno fuori situazioni sempre comiche ai limiti del surreale. Quindi divertente questo lavoro, 7-9 marzo all'Altrove Teatro Studio per Cosa potrebbe andare storto. Andiamo anche al Teatro Palladium perché il 5 marzo, domani sera, Una mosca su Amleto di e con Edoardo Ribatto, grande attore che troppo poco vediamo in realtà in scena negli ultimi anni. È un format appunto dedicato a Shakespeare che ha visto già un Playing Shakespeare con Loredana Scaramella nelle settimane precedenti ed è uno studio su Amleto che spazza via, insomma, tutto ciò che di questo personaggio sembra un po' scontato. Questo poi è l'intenzione di ognuno che poi lo rimetta in scena. Quindi lo andremo a scoprire il 5 marzo al Teatro Palladium. Fortezza Est, tornano i Tre Barba con Le Nozze di Figaro. Tutti mi vogliono, tutti, cioè, Figaro lo sappiamo. E i Tre Barba, Lorenzo Deliberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, da Mozart, con libretto di Lorenzo da Ponte, portare quindi l'opera lirica irriverente in un contesto anche piccolo come un teatro, come la Fortezza Est, insomma, è un esperimento molto interessante, ma già riuscito negli anni precedenti, quindi tornano nell'irriverente opera lirica, l'irriverente performance di Tre Barba, appunto, 6-8 marzo a Fortezza Est. Per Expo, Teatro Italiano Contemporaneo al Teatro Belli, andranno in scena due spettacoli. Il primo sarà Contagio, scritto da Enzo Ferraro, con la regia di Andrea Barbati, e si tratta di una grave epidemia che si sta diffondendo, un virus che permette di trasmettere convinzioni politiche, religiose o altri ideali da una persona all'altra semplicemente parlandone. E sta creando il panico e il caos. Oh mio Dio, forse è il caso di andare. Dal 4 al 6 marzo, considerato come sta andando il mondo contemporaneo, Piccole donne non devono morire invece dal 7 al 9 marzo, scritto e diretto da Francesca Pica e Maria Scorza. Siamo al sud Italia, una piccola cittadina di provincia, dove due sorelle, Margherita e Pina, si incontrano in un cimitero per un triste evento, la riesumazione della sorella Bettina, morta prematuramente 20 anni prima. Nel loro dialogo chiaramente starà una bella e incredibile storia che affonda nel passato, ma nel presente riporta un po' tutto quello che deve riportare, forse anche un po' di più, tutto considerato. Teatro Villa Panfili, sabato 8 marzo, per andare a vedere Monica De Muru, grande attrice, grande cantante, per questo Tinello, conversazioni teatrali, uno spazio di incontro in cui Monica De Muru incontra alcune protagoniste della scena artistica contemporanea. La prima ospite di questo format sarà Martina Badiluzzi, regista, autrice che abbiamo visto in scena in altri contesti. Sabato 8 marzo, attenzione, perché alle ore 11:30 del mattino, per incontrare Monica De Muru e la sua ospite Martina Badiluzzi. Procediamo, Teatro Palladium, anche venerdì 7 marzo ci andiamo con la prima romana di questo lavoro di Michela Lucenti, balletto civile, Les Fleurs. Les Fleurs riprende il noto titolo dell'opera di Charles Baudelaire e si concentra sul linguaggio poetico e l'impianto rivoluzionario che ha sul corpo contemporaneo, un corpo politico, una visione di libertà e dialogo con la società civile. Quindi politica attraverso il corpo, politica attraverso la coreografia, per Michela Lucenti, il 7 di marzo al Teatro Palladium. E noi ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Andiamo esclusivamente a ricordare che al Teatro della Cometa Off, dal 6 al 16 di marzo, va in scena il nuovo testo di Francesca Stasch, Il condominio di Giulia, diretto da Riccardo Scarafoni. Ci sono 6 tra attori e attrici in scena. Si tratta di un lavoro che mette in scena un condominio, cioè i condomini di Giulia, ma è un condominio un po' particolare, perché queste personalità, insomma, sono all'interno della testa di Giulia. Coscienza, razionalità, senso di colpa, speranza, sistema nervoso e cuore. Sono gli inquilini di Giulia, cioè ci stanno proprio dentro, ecco. È un'attrice televisiva quarantenne chiamata a prendere una decisione molto sofferta, e loro che vivono nella testa di Giulia l'aiutano a prendere delle decisioni, ed è uno spettacolo un po' particolare, insomma, unico nel suo genere per ciò che rappresenta, ma ci ricorda anche, insomma, che è un tema che ogni tanto, sia il cinema o la serialità televisiva o chissà, questa volta è il teatro, ogni tanto ci portano davanti agli occhi. Quindi andiamo a vedere questo, il condominio particolare, il condominio di Giulia, di Francesca Stasch, dal 6 al 16 marzo alla Cometa Off. Ma l'ultimissimo lavoro di cui dobbiamo parlare è questo Overload, premio Ubu, spettacolo dell'anno 2018, che arriva, ritorna a Roma, allo Spazio Diamante, dal 6 al 9 di marzo. Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini. Il testo, la drammaturgia curata da Daniele Villa, questo è il nome di tutti, ma in realtà il nome collettivo è Sotterraneo. Di cosa parla Overload? Fra distrazione di massa e mutazioni digitali, siamo immersi in un ambiente aumentato dai media. Sovrastimolati dalle informazioni, viviamo in uno stato di allerta continua che gli antichi conoscevano solo in battaglia. Il rumore di fondo cresce in tutto il pianeta. Non dovremmo forse fare più silenzio e prestare più attenzione? Overload mette in scena lo scrittore americano David Foster Wallace nell'atto di pronunciare un discorso che assume presto la struttura di un ipertesto, dove tutto, link, improvvisi, innescano possibili azioni e immagini e creano una rincorsa continua a contenuti extra che solo il pubblico decide se attivare o meno. E insomma, nient'altro da dire, solo andarlo a vedere. Overload, 6-9 di marzo allo Spazio Diamante. E con questo abbiamo finito, un saluto a tutte e tutti. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.